ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia, Poschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia. E intanto nell'ombra dei loro armati tengono lini e vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri temporali, Genova, ai giorni tutti uguali, in un'immobile campagna con la pioggia che ci bagna, i gamberoni rossi sono un sogno e il sole è un lampo giallo al parabrisi. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova,